ballare lo sama da campion. Piccola, il papà ti darà lezion, ma non vuoi imparare il tuo rock and roll. Guardalo nell'ebbrezza di un vecchio Charleston. Il papà già si sente la forza d'un leon. Piccola, dagli un briciolo di felicità. Piccola, fa ballare papà. Piccolo, puoi ballare davvero il Charleston. C'è papà che ballare lo sa ma da campion. Piccolo, il papà ti darà lezion, ma non vuol imparare il rock and roll. Guardalo nell'ebbrezza di un vecchio Charleston. Il papà già si sente la forza d'un leon. Piccola, dagli un briciolo di felicità. Piccola, fa ballare.